Ad alta voce. Maria Paiato legge Amuleto di Roberto Bolaño. Traduzione di Ilide Carmignani. Nona puntata. Poi tornai al mondo. Basta avventure, mi dissi con un filino di voce. Avventure, avventure. Io ho vissuto le avventure della poesia, che sono sempre avventure per la vita o per la morte, ma poi sono tornata. Ho fatto ritorno alle strade del Messico e la quotidianità mi è sembrata bella, perché chiedere di più? Perché ingannarmi oltre? La quotidianità è una trasparenza immobile che dura solo qualche istante. Così feci ritorno e la guardai e mi lasciai avvolgere. Io sono la madre, le dissi. E francamente non credo che i film del terrore siano la cosa più raccomandabile per me. E allora la quotidianità si gonfiò come una bolla di sapone, ma in maniera esagerata, ed esplose. Ero di nuovo nel bagno delle donne al quarto piano della facoltà di lettere e filosofia, ed era il mese di settembre del 1968. E io pensavo alle avventure e a Remedios Varo. Sono in così pochi a ricordarsi di Remedios Varo. Io non l'ho conosciuta. Sinceramente mi piacerebbe da morire poter dire che l'ho conosciuta, ma la verità è che non l'ho conosciuta. Io ho conosciuto donne meravigliose, forti come montagne o come correnti marine, ma Remedios Varo non l'ho mai conosciuta. Non perché mi vergognassi di andare a trovarla a casa, non perché non apprezzassi la sua opera, che apprezzo con tutto il cuore, ma perché Remedios Varo è morta nel 63 e io nel 63 ero ancora nella mia lontana e amata Montevideo. Certe sere, però, quando la luna entra nel bagno delle donne e io sono ancora sveglia, penso di no. Penso che nel 63 ero già a Città del Messico e che Pedro Garfias mi ascolta assorto mentre gli chiedo l'indirizzo di Remedios Varo, che lui non frequenta ma rispetta. E poi si avvicina con movimenti incerti alla sua scrivania, tira fuori un fogliettino, l'agenda da un cassetto, la stilografica da una tasca della giacca, e mi scrive cerimoniosamente e con eccellente calligrafia il recapito dove posso trovare la pittrice catalana. E io ci vado al volo, a casa di Remedios Varo, che è nel quartiere Polanco. Può darsi? O nel quartiere Ansures, può darsi? O nel quartiere Tlaxpana, può darsi? La memoria gioca brutti scherzi quando la luna calante entra come un ragno nel bagno delle donne. In ogni caso, io cammino svelta nelle strade di Città del Messico, che si succedono una dopo l'altra e a poco, man mano che mi avvicino a casa sua, cambiano, e ogni cambiamento si appoggia al cambiamento precedente come successione e al tempo stesso come critica. Finché arrivo in una strada dove tutte le case sembrano castelli in rovina. E allora suono un campanello e aspetto alcuni secondi durante i quali sento solo i battiti del mio cuore, perché io sono talmente scema che quando sto per conoscere qualcuno che ammiro il cuore mi accelera. E poi ascolto dei passettini e qualcuno apre la porta ed è Remedios Varo. ha 54 anni, cioè le resta un anno di vita. Mi invita a passare. Non ricevo molte visite, mi dice. Io entro e lei si fa da parte. Prego, dice, avanti. E io percorro un corridoio debolmente illuminato fino a una sala di grandi dimensioni, con due finestre che danno su un cortile interno, velate da un paio di pesanti tende lilla. Nella sala c'è una poltrona e mi siedo. Su un tavolinetto rotondo ci sono due tazze di caffè. In un portacenere noto tre mozziconi. La conclusione ovvia è che c'è una terza persona in casa. Remedio Svaro mi guarda negli occhi e sorride. Sono sola, annuncia. Le dico quanto l'ammiro, le parlo dei surrealisti francesi e dei surrealisti catalani, della guerra civile spagnola. Di Benjamin Perret non le parlo perché si sono separati nel 1942 e non so che ricordo abbia di lui, ma le parlo di Parigi e dell'esilio e del suo arrivo in Messico e della sua amicizia con Leonora Carrington. E allora mi rendo conto che sto raccontando a Remedio Svaro la sua vita, che mi sto comportando come un'adolescente nervosa che recita la lezione davanti a un tribunale inesistente. E allora divento rosso come un pomodoro e dico: mi scusi, non so che cosa dico. Dico: potrei fumare? E cerco nella borsa il mio pacchetto di Delicados, ma non lo trovo. E dico: ha una sigaretta? E Remedio Svaro, che è in piedi e volta alle spalle un quadro coperto con una vecchia gonna. Una vecchia gonna però che deve essere appartenuta a una gigantessa. Dice che non fuma più, che i suoi polmoni adesso sono malmessi, anche se non ha l'aria di avere dei brutti polmoni. Non ha nemmeno l'aria di aver visto qualcosa di brutto, anche se so che ha visto tante cose brutte. L'ascesa del diavolo, l'interminabile processione di termiti sull'albero della vita, il conflitto fra i lumi e l'ombra o l'impero o il regno dell'ordine. Perché è in tutti questi modi che può e deve essere chiamata la macchia irrazionale che vorrebbe trasformarci in bestie o in robot e che lotta contro i lumi fin dai tempi dei tempi. Una mia congettura che nessun uomo illuminato darebbe per buona. Io so che ha visto cose che pochissime donne sanno di aver visto e che ora sta vedendo la sua morte in una data ben precisa, entro 12 mesi. E so che c'è qualcun altro in casa sua che invece fuma e che non vuole essere sorpreso da me. E questo mi fa pensare che chiunque sia è qualcuno che conosco. Allora sospiro e guardo la luna calante riflessa sulle piastrelle del bagno delle donne al quarto piano. E con un gesto che vince la stanchezza e la paura stendo la mano e le chiedo: che quadro è quello che tiene coperto con la gonna della gigantessa? E Remedio Svaro mi guarda sorridendo e poi si gira. Mi volta le spalle e per un po' studia il quadro, ma senza togliere o spostare la gonna che lo protegge da sguardi indiscreti. «È l'ultimo», dice. O forse dice che è il penultimo. L'eco delle sue parole rimbalza contro le piastrelle rigate dalla luna. E così è facile confondersi tra l'ultimo e il penultimo. E in quell'ora di insonnia militante, tutti i quadri di Remedio Svaro sfilano come lacrime versate dalla luna o dai miei occhi azzurri. E così, sinceramente, è difficile attaccarsi ai dettagli e distinguere con chiarezza la parola ultimo dalla parola penultimo. E allora Remedio Svaro solleva la gonna della gigantessa e io vedo una valle enorme, una valle vista dalla montagna più alta, una valle verde e marrone, e la visione di quel paesaggio mi angoscia, perché io so, come so che c'è un'altra persona in casa, che la pittrice mi sta mostrando un preludio, lo sfondo su cui si svolgerà una scena che mi marchierà a fuoco. No, a fuoco no. A questo punto niente può più marchiarmi a fuoco. Quello che invece intuisco è un uomo di ghiaccio. Un uomo fatto di cubetti di ghiaccio che si avvicinerà e mi darà un bacio sulla bocca, sulla mia bocca sdentata. E io sentirò quelle labbra di ghiaccio sulle mie labbra. E vedrò quegli occhi di ghiaccio a pochi centimetri dai miei occhi. E allora perderò i sensi, come Juana de Barboru. E mormorerò: perché proprio io? Civetteria che mi sarà perdonata. E l'uomo fatto di cubetti di ghiaccio sbatterà le ciglia, o sbatterà le palpebre. E in quel battere di ciglia e di palpebre io riuscirò a vedere un uragano di neve, ma a stento, come se qualcuno avesse aperto la finestra e poi, pentito, l'avesse richiusa di botto, dicendo: non ancora, Auxilio. Quello che devi vedere lo vedrai, ma non ancora. Io so che quel paesaggio, quella valle immensa con una lieve aria di sfondo rinascimentale, aspetta. Ma che cosa aspetta? E allora Remedios Varo copre il quadro con la gonna e mi offre un caffè e ci mettiamo a parlare di altre cose, della vita di tutti i giorni, per esempio, anche se in mezzo al discorso si insinuano parole decontestualizzate come parusia o ierofania, come psicofarmaci o elettroshock. E poi parliamo di qualcuno che sta facendo o ha appena fatto uno sciopero della fame e io sento me stessa dire: dopo una settimana senza mangiare non hai più fame? E Remedios Varo mi guarda e dice: poveretta. Proprio in quel momento la pesante tenda lì la si agita e io balzo in piedi e non ho modo né mi permetto di riflettere su quanto appena detto la pittrice catalana. Mi avvicino alla finestra, scosto la tenda e scopro un gattino nero. Tiro un sospiro di sollievo. So che alle mie spalle Remedios Varo sta sorridendo e allo stesso tempo sta chiedendosi chi sono. La finestra dà su un piccolo giardino interno dove fanno la siesta altri 5 o 6 gatti. Quanti gatti? Sono tutti suoi? Più o meno, dice Remedios Varo. La guardo. Remedios Varo ha il gattino nero in braccio e gli dice: «Bonich, on eres? Bonich, fei ores, quet buscava? Dov'eri, tesoro? Erano ore che ti cercavo. Vuoi ascoltare un po' di musica?» Lo dice a me o al gattino? A me, presumo, perché col gattino parla in catalano, anche se salta agli occhi di chiunque che è un gatto messicano. Un gatto randagio messicano con un pedigree di almeno 300 anni. Anche se ora che la luna si sposta, con passettini da gatta, da una piastrella all'altra del bagno delle donne, mi chiedo se in Messico, prima dell'arrivo degli spagnoli, ci fossero i gatti. E spassionatamente, obiettivamente, quasi con un filo di indifferenza, mi rispondo di no. Non c'erano gatti. I gatti sono arrivati con la seconda o la terza ondata. E allora, con voce da sonnambula, perché sto pensando ai gatti sonnambuli del Messico, le dico di sì. E Remedios Varo si avvicina al giradischi, un vecchio giradischi, cosa per niente strana perché siamo nell'incredibile 1962 e tutte le cose sono vecchie. Tutte le cose si portano, come me, una mano alla bocca per soffocare un grido di sorpresa o una confidenza inopportuna. e mette un disco e mi dice: è il concertino in la minore di Salvador Bacarisse. E io ascolto per la prima volta quel musicista spagnolo e inizio di nuovo a piangere, mentre la luna salta da una piastrella all'altra, al rallentatore, come se questo film lo dirigessi io e non la natura. Quanto tempo siamo state ad ascoltare Bacarisse? Non lo so. So soltanto che a un certo punto Remedios Varo solleva il braccio del giradischi e mette fine all'ascolto. E poi io mi avvicino a lei, perché non voglio andarmene, lo riconosco. E mi offro, avvampando, di lavare le tazze che abbiamo usato, di spazzarle il pavimento, di spolverarle i mobili, di lucidarle le pentole della cucina, di andarle a fare la spesa, di rifarle il letto, di prepararle il bagno. Ma Remedios Varo sorride e mi dice: non ho più bisogno di niente di tutto questo, Auxilio, ma grazie lo stesso. Non ho più bisogno di niente. Non mi serve nessun aiuto, dice Remedios Varo. È una bugia. Come fa a non servirle nulla? Penso mentre mi accompagna alla porta. E poi mi vedo sulla soglia di casa sua. Lei è dentro e ha la mano sul pomello della porta. Sono tante le cose che vorrei chiederle. La prima, se posso tornare a trovarla. Ora un sole come vino bianco inonda tutta la strada vuota. È quel sole a illuminarle il volto e a tingerlo di malinconia e coraggio. Bene, va tutto bene. È ora che me ne vada. Non so se darle la mano o un bacio su ogni guancia. Noi latinoamericane, per quanto ne so, diamo solo un bacio su una guancia. Le spagnole ne danno due, le francesi ne danno tre. Quando ero ragazzina pensavo che i tre baci che davano le francesi volessero dire libertà, uguaglianza, fraternità. Ora so che non è così, ma l'idea mi piace lo stesso. Così le do tre baci e lei mi guarda come se in qualche momento della sua vita avesse pensato la stessa cosa. Un bacio sulla guancia sinistra, un altro sulla guancia destra, un ultimo bacio sulla guancia sinistra. E Remedios Varo mi fissa e il suo sguardo dice: non ti preoccupare, Auxilio, non morirai, non diventerai pazza. Tu stai tenendo alta la bandiera dell'autonomia universitaria. Tu stai salvando l'onore delle università della nostra America. Il peggio che ti può succedere è di dimagrire orribilmente. Il peggio che ti può succedere è di avere le visioni. Il peggio che ti può succedere è che ti scoprano. Ma tu non ci pensare, tieni duro, leggi il povero Pedrito Garfias, potevi anche portarti un altro libro nella toilette, cara mia, e lascia libera la mente di spaziare nel tempo, dal 18 al 30 settembre 1968, neppure un giorno di più, non devi fare altro. E allora Remedios Varo chiude la porta e dall'ultimo sguardo che manda a sbattere contro il mio sguardo capisco, senza mezzi termini, che è morta. Thank you. di Roberto Bolagno. Amuleto è giunto alla nona puntata in questo ciclo di Ad Alta Voce a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio e Luigi Iavarone alla regia. Le puntate sono riascoltabili sul sito raiplayradio.it.